X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Russia is in deep recession. La Russia si trova in una recessione profonda. L'azione della Russia in Ucraina fa male alla Russia e ai russi. Il G7 ha detto chiaramente che se sarà necessario, nuove significative sanzioni verranno imposte alla Russia. Vladimir Putin deve scegliere se continuare a isolare il suo paese e a distruggere la sua economia, nello sforzo sbagliato di ricreare i fasti dell'impero sovietico. Oppure se riconoscere che la grandezza della Russia non dipende dalla violazione dell'integrità territoriale e della sovranità di altri stati. Professor Sergio Romano, allora, queste erano le parole di Obama alla fine del vertice del G7, sono parole molto aggressive. Quella guerra fredda da lei tanto evocata si avvicina? Ma io credo che Obama in questo caso non sia necessariamente rappresentativa degli umori di tutto il G7. All'interno del G7 vi erano anche paesi che si sarebbero pronunciati in modo diverso. Evidentemente Obama ha preso per sé, a suo carico, per così dire, il diritto dovere, probabilmente a dovere ai suoi occhi, di dare un segnale più forte, perché questo è quello che l'opinione pubblica americana desidera in questo momento. Ecco, però professore, parole così forti, toni così precisi, significano nuove armi agli alleati in Ucraina? No, su questo direi di no, perché la questione c'è stata certamente discussa nel castello bavarese, ma non vi è stato un accordo, perché per dare le armi all'Ucraina occorre veramente un'intesa di più largo respiro, e mi pare che gran parte dei paesi europei nicchiassero. Siano ancora contrari. Ecco, Obama, l'abbiamo sentito, dice che Putin sta mandando in pezzi l'economia del paese, però il consenso di Putin in Russia cresce, allora... Assolutamente, e credo che questo sia sbagliato ignorarlo, non rendersene conto. E il fatto poi che si metta tanto l'accento sull'economia, quando una delle cause del peggioramento dell'economia russa sono proprio le sanzioni. In altre parole, non mi sembra che Obama abbia il diritto di usare l'argomento come se fosse la prova dell'insuccesso del sistema Putin. Il sistema Putin ancora certamente dipende troppo dalle materie prime ed è per questo vulnerabile, ma sostenere che l'economia russa va male perché il presidente è un cattivo presidente non mi sembra giusto. Senta, professor Romano, ma è legittimo il richiamo che Obama fa alla legalità internazionale nei confronti di Putin? Continuo a pensare che all'origine di queste dichiarazioni, come quelle di Obama e non soltanto di Obama, vi sia una lettura sbagliata della vicenda ucraina. Finché si continua a pensare che Putin si muove secondo linee imperialistiche, per così dire, e ha soltanto l'obiettivo di ricostituire l'Unione Sovietica, si finisce per dimenticare quali sono state le responsabilità della classe dirigente ucraina, si dimentica che alla vigilia del voto parlamentare di Maidan vi era stato un accordo, che questo accordo era stato firmato anche dal vecchio presidente ucraino, oltre che dai ministri degli esteri occidentali, e fu in qualche modo buttato all'aria dal voto del Parlamento ucraino. Tutto questo è scomparso, è uscito dall'orizzonte proprio. Sì. Ecco, professor Romano, ma nella sua intervista recentissima al Corriere della Sera, Putin dice con chiarezza, queste sono le sue parole, io non sono un aggressore. Insomma, chi aggredisce chi? Ma vede, qui comincia di nuovo la storia della lettura sbagliata. Oggi viene rimproverato alla Russia di stanziare nuovi missili di medio raggio nella zona del Baltico. E lo si dice continuamente senza ricordare che qualche anno fa, quando il presidente era Bush, gli Stati Uniti denunciarono l'accordo del 1972 con cui i due paesi si erano impegnati a non costruire più di una base antimissilistica. E naturalmente quella fu subito individuata da Medvedev, che era allora il presidente. Sì. Come una violazione del principio fondamentale dell'equilibrio della guerra fredda. Ecco. E disse allora Medvedev, sì, a un certo punto potremmo essere costretti anche noi a mettere dei missili a Kaliningrad. Certo. Senta, professor Romano, il Papa insiste sul ruolo dei venditori di armi come motori della guerra. Ma a chi si riferisce secondo lei? Ma questo è un argomento, devo dire, che è abbastanza delicato per la Chiesa, sa, non delicato certo. per un osservatore sì. esterno, perché in realtà gran parte della politica occidentale, piaccia o non piaccia, è stata fatta dal complesso militare industriale, come lo chiamò Eisenhower alla fine del suo mandato. Non dimentichiamo che nel momento in cui lei ammette un nuovo paese all'interno della NATO, parlo della NATO, sì. non dell'Unione Europea, lei in qualche modo sa che quel paese dovrà rivedere il suo sistema delle armi, tutto ciò che in qualche modo appartiene al sistema bellico di un paese dovrà essere rivisto per essere complementare e integrabile con quello degli altri paesi. Cioè con quello americano, per essere con chiari. Ecco, ma oggi... allora chi fa a questo punto, chi trae vantaggio da questa operazione? Allora oggi il Papa vedrà Putin. È un rapporto che secondo lei si sta consolidando? Ma io credo di sì, per certi aspetti. Naturalmente se il Papa... Cioè, ma gli accomuna un feeling anti-americano? Probabilmente, probabilmente. Bergoglio è un latinoamericano, dove gli Yankees, voglio dire... Sono Yankees, avuto, sì, appunto. Non hanno mai avuto un'immagine. No, ma tenga presente che in questo caso il Papa deve stare attento, perché se la sua filosofia, se il suo atteggiamento nei confronti di Putin... ed è determinato dalla speranza che il rapporto fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa possa addirittura portare... Migliorare, sì. Migliorare addirittura, sino in qualche modo a seppellire lo scisma, se può dire, di un tempo. Beh, credo che su questo potrebbe farsi delle illusioni. Ah sì. Senta, dal G7 comunque è emerso un desiderio americano, l'abbiamo sentito, di aumentarle queste sanzioni. Ci riusciranno gli americani secondo lei? Cioè la Merkel può portare l'Europa unita su sulle posizioni di Obama? Ma io non credo che la Merkel voglia questo. No, voglia no, ma... Anzitutto la decisione sulle sanzioni, ancor più che dal G7, sarà presa, quella importante sarà presa dal vertice europeo, sì, il 30 giugno, quindi sì. un paio di settimane. E in quell'occasione assisteremo a uno scontro fra quei paesi, soprattutto i paesi dell'Europa centro-orientale e del Baltico, che le tensioni, le sanzioni le vedrebbero bene, per così dire. Sì. E da un lato invece paesi che non sono come l'Italia. L'Italia. Guardi che la risposta dell'Italia al G7 è Putin all'Expo, Putin certo. in Vaticano. Esatto, infatti ieri Descalzi, anche l'amministratore delegato di Eni, ha detto che non si può fare a meno della Russia per i prossimi 5-6 anni. Questo è l'amministratore delegato dell'Eni. Quindi l'Italia non può fare a meno della Russia. E forse non vuole. No, credo che lei abbia ragione, ma non soltanto per la questione petrolifera, no, che naturalmente. È certamente importante. No, lì c'è uno straordinario grande mercato in espansione destinato a crescere, ed è assurdo che di questo in qualche modo non si tenga conto. Ecco, ma infatti io ho letto oggi, su qualche giornale, non mi ricordo quale, che Renzi potrebbe aver ottenuto nel bilaterale che ebbe con Obama una certa autonomia nel trattare con Putin. Questo è possibile? Ma direi di sì, se agli Stati Uniti interessa che l'Italia in qualche modo continui a far parte del blocco occidentale, non può non interessarli. Dire, qualche concessione la dovrà pur fare. Quindi Renzi, oggi che incontra Putin, potrà dirgli qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto Obama al G7? È possibile, ma non ce lo diranno. Non ce lo diranno. Senta, professor Romano, intanto sullo scacchiere geopolitico tutto in movimento, la non vittoria di Erdogan in Turchia apre un fronte nuovo? Io direi di sì. Ma in che direzione? Ma vede, nella direzione anzitutto di un paese in cui Erdogan non avrà più l'autorità e il carisma di cui ha potuto godere sinora. E questo è già importante, non dimentichiamo che c'era, come dire, nel carattere di Erdogan, la sindrome del sultano, e questo in qualche modo viene tarpato, non è indifferente che questo accada. E naturalmente adesso staremo a vedere che cosa riesce a fare questo partito curdo, nuovo partito curdo, perché quello che mi ha maggiormente colpito è il fatto che non è stato votato soltanto dai turchi, no, infatti, sì. ma da quella parte della società turca che pur di, come dire, non sbarazzarsi di Erdogan, credo che lo sappiano che non è così semplice, ma pur di rendere Erdogan meno influente, meno decisivo, sì, meno incisivo, hanno addirittura votato per i curdi. Questa è una svolta importante. Certo, ma e lui potrà fare un governo di coalizione o dovrà tornare alle elezioni? I numeri ci dicono che se fa un'alleanza con i supernazionalisti, gli ipernazionalisti, il governo di coalizione lo può fare, ma sarà pur sempre in questo caso un governo, certo, con il quale non potrà realizzare quelli che erano stati i suoi principali obiettivi, vale a dire la Repubblica Presidenziale. Lui ne esce ridimensionato. Ma la Turchia dopo queste elezioni secondo lei è più vicina o più lontana all'Europa? È più vicina. Più vicina. Perché? È più vicina perché il voto ai curdi significa due cose. Anzitutto basta questa politica siriana in cui si sta alla finestra a guardare mentre l'ISIS cerca di conquistare la città curda di Kobani. Ecco, ma senta cosa mi aveva detto Gheddafi in un'intervista sull'entrata della Turchia in Europa. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Chi sarà Gheddafi? Che ne pensa? Ma penso che Gheddafi avesse interesse a che la Turchia non entrasse nell'Unione Europea e questo in qualche modo gli dettava lo stile della risposta. No, il problema è che la Turchia in Europa, e questo è un problema di cui non possiamo non tener conto, certo, ci rende confinanti di una serie di paesi con cui non abbiamo mai avuto un confine. E questo, l'avere confini diversi da quelli tradizionali dell'Europa, confinare con l'Iran, confinare con l'Iraq, confinare con altri paesi, con la Siria, significa naturalmente essere in qualche modo soggetti a tutti i rischi che questo comporta in termini di scontri, guerre civili, alle proprie frontiere. Quindi un problema c'è in ogni caso. Sempre. Il problema c'è sempre. E d'altro canto io sono convinto che Erdogan non volesse veramente l'ingresso della Turchia in Europa, ma l'ingresso della Turchia in Europa sbandierato, come fu sbandierato per molto tempo, era in qualche modo necessario per barattare dei militari. Sì. Senta, un'ultima domanda, professor Romano. Cambieranno i rapporti tra la Turchia e l'ISIS con queste elezioni in Turchia? Credo di sì. Credo che non sarà più facile per Erdogan continuare a fare la politica dei due forni, come si sarebbe detto in altri tempi. Credo che dovrà prendere una posizione più ferma nei confronti dell'ISIS. Pensa che la prenderà? Erdogan non è abbastanza enigmatico e soprattutto perché a un certo punto gli saltano i nervi e questo è stato sempre visto. Il suo problema. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ricordo che gli SMS vanno firmati, per favore. Io stasera non ho sentito vibrare la partita IVA che abita nei nostri cuori, signori. Siamo sempre dimenticati, esclusi da qualsiasi cosa e in più tartassati. Ci triplicano le tasse e ci aumentano di nuovo la contribuzione INPS. Non ce la facciamo più. Sembra sempre che si diano spazio di protesta, di parola a tutte le altre categorie di lavoratori. Quando si tratta di noi, zero, non c'è spazio, non c'è tempo, non ci sono soldi. C'è solo da spremere. Sulle partite IVA noi possiamo fare di più. Perché non siamo un bancomat dell'INPS. Premiano i grandi e massacrano i piccoli, soprattutto i freelance, quelli che vogliono rischiare di loro, e non tassano i grandi, non tassano Google, non tassano Amazon, non tassano i mostri del web. L'associazione Bruno Trentin, con il supporto della CGIL, ha realizzato una ricerca, Vita da professionista. È una fotografia del popolo dei lavoratori autonomi. Salvatore Barone, responsabile dell'area contrattazione della CGIL, quale campione avete preso in esame? Professionisti che operano in diversissimi campi, da quello delle banche, assicurazioni, all'editoria, interpreti, traduttori. E la fascia di età? La fascia di età è una fascia intermedia, tra i 30 e i 45 anni, in particolar modo sono i maschi, il 60% circa. Dottor Barone, ma qual è la natura contrattuale più diffusa? Stiamo parlando di una platea molto vasta, quella degli autonomi professionisti in Italia, che sono circa 3 milioni e 300 mila persone. Sì. Poi abbiamo quelli iscritti alla gestione separata, che sono circa 1,5 milioni. Di questi le partite IVA sono 290 mila. Quindi parliamo di numeri molto, molto importanti, e per i quali evidentemente le situazioni sono molto diversificate. Quindi sono le partite IVA, diciamo, la forma contrattuale più diffusa? Esattamente. Partite IVA che hanno un regime, che seguono un regime dei minimi oppure no? Seguono il regime dei minimi, così come è stato confermato nell'ultimo provvedimento. Quindi guadagnano anche molto poco? Guadagnano mediamente tra i 9.000 e i 15.000 euro lordi, quindi siamo effettivamente in una condizione molto al di là di quelle che erano le aspettative dei padri verso i figli, come si suol dire. Sì. Dottor Barone, ma vi risulta che i lavoratori autonomi abbiano più committenti, come del resto la loro libertà contrattuale permetterebbe? 50% siamo nell'ambito della monocommittenza, per il resto in una pluricommittenza. Laddove c'è la monocommittenza c'è molto più rischio, c'è molta più precarietà e c'è un reddito più basso. Laddove c'è una pluricommittenza i minimi di reddito sono leggermente più alti. Ma come si percepiscono i lavoratori autonomi intervistati in questa ricerca? Ma si percepiscono come professionisti altamente qualificati, specialisti, dove si esprimono livelli di responsabilità del proprio operato molto, molto alti, quindi gente che effettivamente è legata al proprio lavoro, tra mille difficoltà, ma comunque che ama il proprio lavoro e che vorrebbe essere riconosciuto nei redditi, che evidentemente sono assolutamente insoddisfacenti, ma anche nei diritti. Parliamo di equi compensi, che come abbiamo visto sono molto al di sotto di quello dei lavoratori dipendenti. Parliamo di diritti come la maternità, le malattie gravi. Che cosa li spaventa di più? La disoccupazione, la malattia grave, nel caso delle donne la maternità, che cosa? Nel caso delle lavoratrici effettivamente il diritto alla maternità e alle malattie è molto avvertito. In generale, sia per i maschi che per le femmine, il tema è quello di aver riconosciuto un compenso che sia corrispondente per responsabilità, per autonomia, quantomeno a quello previsto dai contratti nazionali di lavoro, sotto il quale evidentemente non bisognerebbe andare. Poi ha avvertito tantissimo il tema della prospettiva previdenziale. E del 27,7% l'aliquota previdenziale che volevano aumentare. Esatto, il libero professionista. Però voglio dire, in realtà, appunto, in caso di malattia grave non serve praticamente a niente a chi è un libero professionista versare questa aliquota. Ma partirete da qui per sostenere gli autonomi? Noi partiremo da qui per rappresentarli innanzitutto dentro un nuovo diritto, dentro un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori. Quindi dobbiamo andare al di là del lavoro dipendente per assicurare anche a questi professionisti quelli che sono i diritti cosiddetti universali. Poi quindi farete il contrario di quello che fino ad oggi ha fatto la CGIL praticamente? Io dico che dobbiamo andare al di là di quello che abbiamo fatto finora, quindi vogliamo realizzare per loro la cosiddetta contrattazione inclusiva, è la nuova frontiera sulla quale tutta l'organizzazione vuole misurare. Dottor Barone, su 3 milioni e più o meno, saranno probabilmente di più, 400 mila lavoratori autonomi, l'11% è iscritto a un sindacato. La CGIL non è più capace di interpretare il mondo del lavoro che cambia? Il nostro assillo non è tanto il tesseramento, il nostro assillo è confrontarci e rappresentare questo mondo, ripeto, in modo nuovo, e naturalmente immaginare che il sindacato sia un soggetto portatore di interessi anche per loro. Ma quando Renzi diceva che i sindacati non sono più rappresentativi, aveva ragione? Secondo me assolutamente no, nel senso che se parliamo del lavoro dipendente, pur nelle difficoltà, noi rimaniamo un sindacato altamente rappresentativo. È vero che rispetto alle nuove professioni, che sono alle nuove figure che sono nate da questo processo tumultuoso di cambiamento, tutte le organizzazioni di rappresentanza sì. Hanno difficoltà. Qual è la prima mossa della CGIL per includere anche gli autonomi nel mondo del lavoro garantito, allora? Il primo appuntamento sul quale ci siamo impegnati con loro proprio nel corso della presentazione della ricerca è stato quello di coinvolgerli nell'ambito della definizione del nuovo statuto dei diritti dei lavoratori. È stato un impegno che si è assunto direttamente con loro il nostro segretario generale Susanna Camusso. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Andrea da Treviso ci scrive: aprirei una mia partita IVA anche solo per potermi accovacciare sotto l'ala protettiva della paladina degli autonomi, Sara Tardelli. Siamo d'accordo. Cioè, mettete in fila. Hai visto? Mettiti in fila. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Pietrangelo, oggi cosa racconti ai tuoi fan? Oggi solo valigie metropolitana, tutta un'atmosfera di buon viaggio, tutto un partire per ricominciare. Era una folla fatta di serenità, mani sui cui palmi stavano spiagge, boschi e promesse di escursione. Era tutto uno svuotarsi di città stamattina. In metropolitana c'era proprio questo andirivieni di allegria. E anche il derviscio e il professore di filologia con le sue sigarette al mentolo, eppure il filosofo, stavano lì a friggere di curiosità, mettendosi anche loro in viaggio, tutta una comitiva allegra. Il professore poi aveva già nel taschino il ricordo di Bisanzio, un souvenir di mosaico i cui tasselli custodivano il sole, l'aria e il fulgore di una bellezza senza limite, all'odore di mentolo e con le note di Cesare Cremonini. Buon viaggio. Mario. No, ma hai visto cosa sta facendo? Cosa sta facendo? A parte che già di nuovo... Ha già sta twittando. Sì, no, aspetta. Ha già evocato il mentolo un'altra volta. Prima le sigarette, queste cos'era? Sempre mentolo? Sempre mentolo. Sempre mentolo. Il mentolo suo faccio, ha messo una buona canzone. Un po' dovremo mettere pure la sciarpa, tanto è freddo. Che dai, dai un po' di devo caldo. Spegnere l'aria condizionata. Abbiate pazienza, un attimo. Me lo fai morire. Me lo fai morire. Ho spento l'aria condizionata. Ma sì, è un ragazzo boh, no, è magro. Lui sì, vorresti dire che io sono grasso? No, per carità. No. Però insomma, fammi sentire la bolla. Sembrato Obelix. Quota 100. Dai. Vabbè, andiamo su. Allora, questo è un remix di un pezzo famoso, Ain't Nobody, e c'è un remix anche delle guerre, ovviamente, un remake, chiamateli come volete. Insomma, si fanno, si disfano e si rifanno. Siamo alla terza guerra irachena, come abbiamo raccontato più volte qui a Mix 24. È in corso nella provincia di Anbar, in particolare, dove ISIS ha conquistato la città di Ramadi ed è veramente a un tiro di schioppo da Baghdad. Tutti i tentativi fatti finora per riconquistarla non sono andati benissimo, e praticamente Obama ha deciso di mandare 500 militari americani in Iraq per istruire meglio l'esercito di Baghdad, che non ha dato grande prova. Non ha imparato molto fino adesso. No, no, anzi, molte volte si sono ritirati scappando. È una cosa molto brutta per chi fa il mestiere delle armi, ovviamente. Il vero pericolo è quello che alla fine gli americani saranno trascinati in qualche maniera in una guerra sul terreno prima o poi. Probabilmente già ci sono e non lo sappiamo. Non si dice ancora. Le truppe speciali, ma insomma. Senza quello difficile sconfiggere ISIS, sì. Salamini. Metti una sera a cena. Ieri da Silvio Berlusconi, no, a cena c'era Denis Verdini, il potente senatore che è già stato braccio destro del cavaliere, adesso retrocesso a sinistra a causa di, come dice egli, esso medesimo Verdini, una serie di individui di cui è meglio non parlare, ha incontrato il suo ex leader per discutere il da farsi nel tira e molla, nell'entra ed esci, nel resta e vai da Forza Italia, su cui è chiaro, come con il Milan, Berlusconi già apparecchia una exit strategy, si dice così? Sì, exit, come la vuoi dire? Exit strategy. Oh, c'è un'uscita, va. Se ne una aiuto. Dismissione, una chiusura. E se ne va. Più che quella dei dissidenti, a Berlusconi interessa la propria, quella di egli, cioè di esso medesimo Berlusconi. Comunque, ha discusso con Verdini, se te ne vai ti seguono in pochi, ha detto. Nah. Sì, perché si parla di 13 parlamentari, forse 10, uno no, di sicuro, nessuno probabilmente, ma pare che l'esodo dei dissidenti, cioè la fuga da Forza Italia verso Matteo Renzi, sia tutta un'attesa. Niente meno s'attende la preparazione di un documento, anzi un appello di più... Una mobilitazione di intellettuali di Dove? Centrodestra. Cosa? Sì, sì, intellettuali di Ripeti? Centro. Intellettuali di centrodestra. Non è possibile. Che si mobilitano a favore di un'alleanza con Matteo Renzi. Ma chi? Oibò, non lo so. Mi sono chiesto chi saranno mai questi intellettuali. Chi? Allora io vado così a tentoni. Sicuramente Elenco. Chi? Alfonso Signorini. Mi alzo in piedi. Poi Barbara D'Urso. Mi risiedo. Certamente Maria De Filippi. Roberto Saviano, insomma. Come Roberto Saviano? Sì, cioè, perché Roberto è di centrodestra. No, è lì però nella scuderia di Maria De Filippi. E quindi? E quindi saranno gli amici di Denis Verdini. E ci sarà posta per tutti. Meraviglia. Pietrangelo nel paese delle meraviglie, titolo del nostro futuro programma l'anno prossimo. Mario, fai con le bolle. Allora. Never trust a woman, perché tu non devi mai credere del tutto a una donna, canta B.B. King, che ci ha lasciato da poco, e insomma Marchionne aveva fatto un avance per General Motors, ricordi che qua sì, ne avevamo detto, parlato, no? Sì. Però... adesso se la deve andare verso i grandi però investitori, una signora che è il CEO di GM, non è d'accordo. Mary Barra, ha detto no. Caro Sergio, non se può fare, il nostro matrimonio in questo momento non è possibile. Però è vero che c'era l'assemblea degli azionisti, che General Motors doveva ribadire la sua linea, che le cose, insomma, sta anche recuperando posizioni, che ha un buon cash flow, eccetera, eccetera, eccetera, ma la realtà è che comunque il cosiddetto consolidamento dei costruttori è un fatto abbastanza ineludibile. Necessario. Sì, è come, sai, come quelli che costruiscono aerei, sono pochi, fanno molti modelli, succederà così anche nel settore automobilistico. Secondo me, per il matrimonio ci sarà solo da aspettare. Da aspettare un po' di tempo, e noi aspettiamo. Con canzoniere. Sta nascendo solo adesso questa terra della sera. Quest'Occidente diverrà, oltre l'Occidente, l'Oriente, per tramite di ciò che è europeo, il luogo del futuro coerente col destino. Mm-hmm. Aiutino? Otto, dai, sì, dagli l'aiutino, ma... C'è un filosofo di mezzo, Anassimandro, ma non è Anassimandro. Così, giusto per una roba semplice, sì, Anassiche? Anassimandro, 800-24-0024, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS non è Anassimandro, la pubblicità. Mix 24. A quota rosa, Sara. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una Il calcio è corrotto, eh? Poi fa gol anche alle organizzazioni criminali oramai. Poi tra l'altro questi calciatori sono strapagati, è una roba pazzesca. E i tifosi violenti? Che schifo. Però è il solo sport, almeno in Italia, che riesce a unire questo paese. Insomma, il calcio è l'unica entità che potrebbe reggere davvero un partito della nazione. E infatti succede anche alla nazionale padana, che riesce ad andare oltre i voti, le ideologie, pensa solo alla squadra. Nella sua rosa, per esempio, c'è il fratello di Balotelli. E soprattutto si ritroverà a inaugurare il campionato europeo delle nazioni non riconosciute, giocando contro proprio la nazionale Rom. Ma se riescono a giocare insieme, con delle regole condivise, in un campo da calcio, io ti chiedo, Salvini, ma sei sicuro sia impossibile farlo anche altrove? E andiamo col Salamino! La pietà popolare e il muso duro della Chiesa. Allora, Francesco Bergoglio, il Papa regnante, gela Medjugorje. La Madonna non fa la postina a orari prestabiliti, così ha detto. In verità non cita espressamente la città bosniaca, meta di innumerevoli pellegrinaggi, ma non ci sono margini per sfumature ed eufemismi e il punto è quello. Il Papa condanna il rischio di annacquare l'identità cristiana. Dice, dal Cristo concreto, perché l'identità è concreta, passiamo a questa religione un po' soft, sulla strada degli gnostici. Per vivere il cristianesimo, ha detto ancora il Papa, commentando il Vangelo, basta Cristo. La Madonna, aggiunge, non manda emissari. Ecco, le parole sono dure, eppure... Nella città bosniaca non c'è alcuno spettacolo, non si organizzano baracconi ma solo silenzio e preghiera. A ripercorrere la memoria sappiamo che perfino Padre Pio ebbe a fronteggiare il duro giudizio della Chiesa, ma Lourdes e Fatima sono due fondamentali tappe della spiritualità e la Madonna, che certo non è una postina, sa come arrivare dappertutto, si fa trovare nei portafogli, sotto forma di immaginetta, o nella facciata della meravigliosa cattedrale di Orvieto, dove un giorno vidi un pellegrino sudamericano come il Papa cadere in ginocchio col volto rigato di lacrime e dire: questa non è una chiesa, questa è una preghiera alla Vergine. E di preghiere alla Vergine noi, italiani, o meglio ancora, nella lingua universale della poesia, abbiamo un ricordo ben preciso. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore... Sì, magari a questo magari, insomma. Perché quando preghi tu? Ma di notte, perché fai il punto della situazione. Che... Vai. A quest'ora. Vabbè, dai, un po' di ritmo. Scusa, un po' di 4 volte al giorno. Un po' di ritmo. 5. Ma vogliamo dare ai nostri ascoltatori un po' di sound, un po' di musica, un po' di ritmo. Sì, è una cosa sincopata, giusto? Sì, senti. questa è Classic, un brano carino, molto bellino, riprende un po' di musica degli anni 70, anche 80. Allora, facciamo il punto sul gioco dell'omino nel pozzo che avevamo lanciato, certo, qua come metafora della guerra del petrolio. E beh, insomma, l'Arabia Saudita, ragazzi, ha fatto strike su questo, perché prezzo basso, confermato anche dall'ultima riunione dell'OPEC la settimana scorsa, produzione alta, è stata una strage di operatori che con lo shale oil e lo shale gas avevano trovato una, veramente una miniera d'oro, in questo caso d'oro nero. Certo. La strategia del prezzo da parte dell'Arabia Saudita sta funzionando perché molti di questi si trovano oggi in difficoltà. Leggevo stamattina un interessante articolo sul Financial Times, devo dire, tra quelli che potrebbero comprare questi operatori ci si fa anche il nome di Eni, ovviamente non solo Eni, Gazprom, BP, sono tutti a caccia di queste imprese. Che cosa significa questo? Che si pensa, abbastanza logicamente, devo dire, che il prezzo prima o poi verrà proiettato più in alto e dunque potrebbe essere conveniente avere anche questo tipo di imprese che fanno l'estrazione con quel tipo di tecnologia, certo, cioè con lo shale. È un bel cambiamento da un anno a questa parte, è successo. Vabbè, la politica internazionale sta cambiando tutti i settori, è sì, interessante anche vedere come i nostri ascoltatori che dicono? Spesso non si firmano e quindi non posso leggere, ma sono tantissimi interessati al cambio di prospettive, sì, cioè all'analisi dei grandi fatti internazionali. Sì, anche perché sono gli unici che contano. Sì, per sprovincializzare un pochino il pensiero. Sì, cioè, sì, sono gli unici che contano, hai ragione. Se ti leggo cosa fanno oggi in Parlamento, lasciamo stare. Vabbè, e noi nel nostro piccolo ci proviamo. E intanto, Marina Milone, oggi, dopo il giornale radio, che cosa ci racconti? È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, le elezioni, secondo noi, non sono valide. Parlava così il 30 maggio del 24 il deputato socialista Giacomo Matteotti per denunciare la corruzione nel fascismo e il 10 giugno verrà ucciso in un agguato. Con gli storici Mauro Canali ed Emilio Gentile raccontiamo in retroscena di questo delitto che di fatto apre la dittatura in Italia. E allora, dopo il giornale radio, la storia del delitto Matteotti. Intanto ha telefonato qualcuno? Qualcuno ha indovinato? Pietraggio, un aiutino, daglielo al volo. Dai, andiamo via senza risposta. Avete presente la foresta nera? Lì, l'atmosfera della foresta nera. Vuoi rispondere tu, Mario, visto che non telefono nessuno? No, io non posso. Perché non so niente. Ce lo teniamo per... Allora, il presocratico ci stavo occupando di blatter, io, figurati. Ce lo teniamo per domani. Il presocratico vabbè. L'ho detto, la foresta nera pure. È un tuo amico che telefoni, ma insomma, per chi naturalmente si è perso questa puntata, può ascoltarla in replica questa sera alle 23, ma prima della pubblicità del giornale radio, La vita è adesso di Baglioni, che è anche il titolo del disco più venduto di sempre e oggi compie 30 anni. La vita adesso è il vecchio albergo della terra, e ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri. Cieli smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai.